24 di Giovanni Minoli. Notizia della bocciatura della riforma costituzionale e delle successive dimissioni di Matteo Renzi ad aprire tutti i quotidiani stranieri. Verfassungsreferendum hat Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi sein Rücktritt. Gli italiani hanno bocciato una complicata riforma costituzionale, si legge sul tedesco Der Spiegel. Il s'agit tout simplement de réformer la Constitution pour supprimer le Sénat. Il francese Le Figaro guarda l'incertezza dei mercati e titola Referendum italiano, l'euro ai minimi da marzo 2015. Italian politics has been thrown into turmoil after Matteo Renzi suffered a massive defeat in a referendum on constitutional reform. Renzi si dimette dopo la sconfitta referendaria, titola tutta pagina il Financial Times. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, arribó el lunes al Palacio del Quirinale para formalizar su renuncia ante el presidente de la República, Sergio Mattarella. Molto duro il quotidiano progressista spagnolo El País. Un dito medio a Renzi. È arrivato al potere senza passare per le urne ed è stato divorato dalle urne. Beh, insomma, titoli a tutta pagina su tutti i giornali europei, però nessuna tragedia. Ringrazio Mara Carfagna che è all'ascolto, il professor Arturo Parisi. Cominciamo con lui, perché cominciamo da chi ha perso. Professore, buongiorno. Sì, dice bene. mi riconosco nella sconfitta. Senta, lei ha detto, ha votato sì dicendo no, è solo o un ritorno al passato o un odio personale per Renzi. Che cosa ha prevalso secondo lei? Beh, il denominatore comune più sicuro è l'avversione a Renzi. Sì, sicuramente. Sì. Ma lei vede queste due anime che compongono il PD che sono destinate a esplodere, non riescono a trovare pace? Beh, è sotto gli occhi di tutti. Il fatto che si tratti di due anime, diciamo, che riconoscibili quantitativamente sullo stesso piano, è tutto da discutere. No, io non ho detto sullo stesso piano, naturalmente, però pare che la convivenza sia oramai impossibile. Perché fuori di dubbio, il mancato chiarimento in corso d'opera è uno degli ingredienti della sconfitta. Ma le radici sono lontane? Lontanissime, evidentemente si confrontano da sempre due culture diverse, quella che si è messa in cammino dopo l'89, sì, in qualche modo, certo. E lo stesso Occhetto può essere iscritto all'interno della componente che si è messa in cammino, e quella che viceversa è rimasta ferma. Certo, la ditta, insomma. Certo. Ma c'è secondo lei un rapporto profondo, facendo un salto di qualità, come è abituato a fare lei nei suoi ragionamenti, un rapporto che lega Brexit, elezioni di Trump e referendum? È troppo ardito? No, in qualche modo non è pure originale, perché riconoscono tutti, almeno nell'Occidente, non possiamo dimenticare, in un tempo in cui si parla di globalizzazione, che il mondo è molto più grande dell'Occidente, ma i paesi dell'Occidente sono attraversati da un cambiamento profondo che vede divaricare i vincenti della globalizzazione dai perdenti, quelli che si sentono vincenti da quelli che si sentono perdenti. Cioè è una crisi profonda, anche che diventa crisi di modalità di vivere la rappresentatività democratica. Insomma, è difficile trovare la composizione nell'ambito di una soluzione democratica parlamentare come siamo abituati a vivere. Beh, certamente noi non abbiamo trovato una soluzione che riesca a frenare i vincenti sempre più scatenati e sempre più incontrollabili, perché si muovono su uno scacchiere mondiale e allo stesso tempo, come dire, tende la mano ai perdenti, i quali, chiusi dentro i confini dei singoli stati, immaginano di cercare la sicurezza nella costruzione di muri. Ecco, infatti, professor Parisi, la cosa interessante da analizzare da questo punto di vista, proprio perdenti e vincenti, è interessante vedere come a votare no sono stati soprattutto i giovani, quelli che in fondo si sentono davvero gli esclusi di questa globalizzazione senza anima. Beh, diciamo quelli che si sentono a rischio, perché al momento siamo tutti seduti sulla poltrona del dentista e cominciamo a lamentarci quando il dentista ci dice: ma non ti ho ancora toccato, tu già ti lamenti concretamente, no? ho paura che il peggio deve arrivare. Al momento ancora non è successo nulla di definitivo. Naturalmente ognuno sente di scendere. Sente di il pericolo che incombe. Ecco, professore, per venire alle cose di casa nostra direttamente, lei pensa che ci sia stato ieri un conflitto profondo tra Mattarella e Renzi su come chiudere questa esperienza? Non lo so, guardi, in effetti sui giornali leggo due versioni completamente diverse . Che non possono che preoccuparmi per il futuro. Da una parte una versione che descrive Renzi come uno in fuga trattenuto da Mattarella, dall'altra invece una che descrive Renzi determinato a contrattaccare indifferente a tempi e modi. Ecco, ma secondo lei Renzi dovrebbe lasciare, come ha detto ieri Boccia qui da noi, l'onorevole Boccia, con molta forza e determinazione, lasciare tutto, lasciare anche la segreteria? Beh, la segreteria è in discussione oggettivamente, mi sembra che questo sia fuori di dubbio. Personalmente penso che, pur condividendo tutti la necessità di andare alle elezioni nel più breve tempo possibile, sia importante sottolineare che alle elezioni ci si deve arrivare senza fermarsi su nessun passaggio, ma senza saltarne nessuno. E da questo punto di vista uno dei passaggi fondamentali è quello di una verifica all'interno del partito, un chiarimento dentro un congresso, inevitabilmente. Naturalmente. Una conta congressuale. Congresso è una parola che appartiene a un'altra stagione, ma dentro una conta congressuale in cui le proposte per il futuro e le analisi che riguardano il passato sono messe a confronto. Ecco, professor Parisi, una cosa che ha dimostrato questo PD però è di non saper aggregare, cioè di provare a vincere da solo ma di essere incapace di fare realmente delle alleanze. Lei ha fondato con Romano Prodi l'Ulivo, che era l'esperimento esattamente opposto, era un esperimento inclusivo di culture diverse. È un esperimento che è ripetibile oppure ha fatto il suo tempo? Beh, adesso Ulivo, una parola. Ognuno c'ha il suo Ulivo. Ognuno c'ha il suo Ulivo. Noi quando appunto innalzammo sul pennone la bandiera dell'Ulivo, contemporaneamente ci proponevamo di interpretare quella che era il vincolo, la costruzione, la necessità imposta dalla nuova legge elettorale, il Mattarellum, ma allo stesso tempo ponevamo il problema di andare oltre, non bastava un tavolo di capi partito, c'era bisogno di uno slancio unitario che puntasse e alludesse a un orizzonte realmente unitario. Ecco, può chiamarsi partito della nazione andare oltre? Il partito della nazione è una delle cose più fuorvianti che è stata messa in campo nel corso degli ultimi 3 anni. Se partito della nazione significa un partito che si rivolge a tutta la nazione, solo a partire dal suo progetto, ma senza distinzioni né di classe, né di età, né di religione e così via, tutti i partiti sono chiamati a essere partiti della nazione. Ce ne fossero solo, ce ne devono essere almeno due di partiti della nazione. Se viceversa il partito della nazione significa il partito si che chiama dittatura. Gli altri vengono lasciati nelle loro orecchie, allora è assolutamente... Professor Parisi, Renzi si è presentato sulla scena come un leader di rottura fortissima, la rottamazione è stata il suo credo, eppure è stato percepito e forse anche punito, al di là dei limiti caratteriali, come parte dell'establishment. Questo è strano. Ammesso che non lo fosse all'inizio certamente non lo era, concretamente lo è diventato nel tempo. Non si può contemporaneamente rivendicare i 1000 giorni e la quarta posizione nella graduatoria di durata dei governi e allo stesso tempo immaginare di essere nati ieri. Certo. Senta, il vero nemico del PD comunque il Movimento 5 Stelle, che non è né di destra né di sinistra. Si può liquidare un fenomeno così complesso e ampio come populismo, o è riduttivo, o anche il 5 Stelle sono arrivati al momento in cui devono scegliere chi sono? Beh, fuori dubbio, adesso naturalmente quando noi parliamo di fenomeno parliamo del fenomeno che è interpretato da 5 Stelle ed è quel fenomeno sociale a cui abbiamo fatto riferimento prima. Certo. Questo è, mentre 5 Stelle è quello che cerca di dargli la parola dentro la politica. È un'operazione complicata, secondo lei? Certamente è una, la realtà, se non proprio le voci che il 5 Stelle evoca devono essere prese in serissima considerazione, e uno dei limiti dell'azione di Renzi è stato tipo, quello di non farlo. Di merito è quello di aver dato ad intendere in modo crescente che dentro questa competizione nuova che chiamavano globalizzazione assumere al riferimento i vincenti potesse farci vincere. E quindi da questo punto di vista, e chiudo, la ringrazio professore, lei ritiene conclusa l'esperienza politica di Renzi? No, anzi mi augurerei che rimanesse in campo con le sue idee, ma sapendo che non può rimanere in campo semplicemente continuando, ma ricominciando. Quindi non c'è nessuna segreteria da difendere, c'è una segreteria da riconquistare. E, certo. Quindi, e riconquistandola, ripensando a quello che è stato fatto, indicando il da farsi. Ecco, grazie professor Parisi. Vediamo che cos'è, intanto 800 24 00 24, numero verde per chi vuole telefonare, 349 238 6666, l'SMS. Ecco, onorevole Carfagna, buongiorno. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Scusi per l'attesa, okay. Ma prima chi perde, mi sembra anche una cosa di galateo. Senta, vediamo cosa può succedere invece nel centrodestra dopo il voto del 4 dicembre, 60% di consensi a no, però un no, come dire, che contiene tanti no diversi. Ecco, c'è intanto oggi, si può dire che c'è una coalizione di centrodestra oppure è un corpo in formazione? No, c'è sicuramente una coalizione di centrodestra che si è ritrovato unito che mai in questa battaglia referendaria, un centrodestra che sicuramente ha subito una battuta d'arresto anche a causa di quello che è accaduto nel 2011, non bisogna mai dimenticarlo, quando un governo democraticamente eletto, certo, dal popolo fu defenestrato con una manovra di palazzo, con una congiura orchestrata dalle più alte cariche istituzionali, sì, in combutta. Ma con adesso cerchiamo di andare avanti, però, da questo punto chiaro. Lei è un appassionato di storia, sa, certo, che senza memoria non si costruisce il futuro. Assolutamente. E quindi bisogna anche capire perché siamo arrivati fino a questo punto. Il centrodestra ha subito sicuramente una battuta d'arresto in quel 2011. Certo, è stato un vulnus anche per la democrazia in qualche modo. Sì, è stato un torto prima di tutto al Paese, certo, un'ingiustizia commessa ai danni dell'elettorato di centrodestra, ai danni di Silvio Berlusconi e del suo governo. Da allora il centrodestra ha faticosamente iniziato a percorrere una strada che in alcuni casi ci ha visto divisi, come per esempio nell'appoggio a governi tecnici. Ecco, lei dice una cosa però molto importante, secondo me. Si è rinsaldata l'unità in questa battaglia referendaria, quindi fortemente uniti contro, ma uniti per? No, più che uniti contro, insomma, era anche un'unità per, uniti contro un tentativo maldestro, arrogante, di modificare la Costituzione attraverso regole sbagliate. Quindi d'accordo, questo era il tentativo contro, un tentativo per proporre la nostra visione basata su quegli ideali e su quei principi che hanno ispirato la nostra azione negli anni passati. Non ci siamo inventati nulla di nuovo, quello che noi abbiamo proposto al nostro popolo è quello che abbiamo messo anche in pratica nel 2005, per esempio, quando abbiamo approvato una riforma molto più coraggiosa, molto più innovativa rispetto a questa che è stata poi, certo, bocciata, poi bocciata naturalmente, cavalcato dal partito del Presidente del Consiglio, tra, certo, l'altro. E noi abbiamo proposto, ci siamo presentati con una nostra proposta, con quello che avremmo voluto fare. Ecco, ma parlando adesso, scusi, onorevole Carfagna, parlando anche delle proiezioni future, Matteo Salvini si è autocandidato alla guida del centrodestra, però senza primarie, chi lo decide? Guardi, è in corso una discussione su... questo è il punto, è un punto importante. Sì, sicuramente lo è. Io dico sempre una cosa, che non bisogna angosciare la nostra gente con discorsi su organi grandi. Naturale, è importante, però un metodo è importante. Sì, però bisogna parlare alla gente, vedere quello che è accaduto nel mondo, quello che sta accadendo in Europa, quello che è accaduto anche con questo referendum è una sveglia un po' per tutti. Naturalmente, cioè, Sì, dobbiamo capire che la gente si confronta con problematiche, con un disagio sociale crescente e se noi continuiamo ad essere autoreferenziali, a parlare di... Va bene, però il metodo è necessario, no? Credo, il metodo stabilire un metodo. E lo troveremo sicuramente. Va bene, allora... Le primarie, io, come dire, sono stata tra le prime qualche anno fa... Cioè lei è favorevole, per dirla semplice... Sì, però mi rendo conto che le primarie, così come sono oggi, hanno dei limiti enormi, per cui quando si... Certo, ci vogliono le garanzie, d'accordo. Sì, ha ragione, perché altrimenti finisce per essere una cosa facilmente condizionabile naturalmente. E manovrabile. Che poi sono le condizioni, mi sembra, che pone Berlusconi, dice sì primarie, perché, ma insomma sì, perché altrimenti, con certezza. Se noi vogliamo fare le primarie per avvicinare i partiti al popolo e certo, poi manovrando le primarie non facciamo devono essere chiare, sacco, è inutile farle, no? Certo. Allora io dico, il modo per individuare una leadership lo troveremo sicuramente, parliamo dei problemi concreti, proviamo a trovare delle soluzioni in grado di risolvere. Allora onorevole Carfagna, parlando di problemi concretissimi proprio, Salvini è uno no euro dichiarato, cioè l'euro non lo vuole. E in questo somiglia abbastanza, anzi molto, ai 5 Stelle. Forza Italia non mi sembra che sia un partito no euro, malgrado delle valutazioni sul merito della funzionalità, dell'organizzazione, eccetera, però non si può dire che sia un partito no euro. Lì c'è una differenza colmabile o è incolmabile? Lo vedremo. Lei cosa pensa? Quando io dico che bisogna infatti concentrarsi prima sui programmi e sulle idee, dico esattamente questo. Io penso che uscire dall'euro non significhi risolvere i problemi con cui oggi i cittadini italiani si trovano a fare i conti. È stato sbagliato il modo con cui siamo entrati nell'euro, è sbagliato affidare il progetto unitario alla moneta comune, non certo, esiste un'Europa fondata senza la politica fondata sull'euro, senza non la politica, basta, senza non le basta, garanzie comuni sui depositi, insomma mancano tutta una serie di tasselli che vanno sicuramente però di fatto se uno guarda uscire dall'euro to court mi sembra una soluzione poco praticabile, sì. Però con gli amici della Lega condividiamo le critiche a questa Europa, cioè sì, questa è un'Europa anche Renzi critica l'Europa. Sì, però attenzione, Renzi critica l'Europa in conferenza stampa, perché il famoso vertice di Bratislava, quando Renzi ha rotto con l'Europa, in quel vertice al tavolo negoziale Renzi c'è la firma dell'Italia, cioè Renzi ha votato il documento conclusivo, poi è andato in conferenza stampa e ha fatto il suo show, quindi non è quello il modo per stare in Europa. Senta, cioè, però Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Beppe Grillo hanno molte cose in comune, più di quante non ne abbia con Forza Italia. Sbaglio l'analisi? No, io non vedo tutta questa somiglianza tra Salvini, Giorgia Meloni e Beppe Grillo. Con Giorgia Meloni e con Salvini, con Giorgia Meloni direttamente, con Salvini indirettamente attraverso il suo partito, noi abbiamo governato il paese. Certo. E le dico anche questo, perché al di là della narrazione che molti giornaloni, molta stampa, molta TV in questi anni ha tentato di far passare, io dico che quei governi hanno fatto cose di cui bisogna essere orgogliosi e non di cui bisogna vergognarsi. D'accordo. Provvedimenti, grandi riforme, iniziative che hanno cambiato in meglio il volto del paese. Non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo fare, ma abbiamo fatto sicuramente cose importanti: la riforma del mercato del lavoro, la riforma delle pensioni, la riforma fiscale, l'abolizione della tassa di successione, le norme a favore delle donne, cioè questo governo per esempio, che è un governo che si è vantato di avere metà donne al suo interno, non ha fatto nulla per contrastare la violenza, per contrastare le emarginazioni, le discriminazioni, i pregiudizi. Sì, tante cose invece sono state fatte dai governi Berlusconi in questa direzione. D'accordo. Quindi con loro noi abbiamo governato il paese. Vabbè, e abbiamo fatto cose importanti. Quindi lei dice Matteo Salvini e Meloni sono diversi come punto di riferimento rispetto a Grillo, anche, cioè ci sono cose... punti di riferimento valoriali, ideali, che sono completamente diversi. Siccome si governa anche sulla base dei valori e degli ideali, non c'è dubbio. Allora io le chiedo, faccio un'altra domanda. Berlusconi e Renzi, secondo lei è un destino ineluttabile quello di un nuovo Mannazzareno, almeno per fare la legge elettorale, o forse anche di più, oppure no? No, assolutamente io non la vede nella prospettiva. No. Mannazzareno per la legge elettorale io non... Dice c'è già stato e bastato. Insomma. No, ma non è quello. Allora, per fare una legge elettorale c'è bisogno sicuramente di... Insomma, comunque lei non lo vede. Renzi e Berlusconi, nuovo Nazareno, è un'ipotesi giornalistica, non politica. Io non lo vedo la possibilità di trovare sicuramente dei punti di contatto, delle convergenze, chiamiamole come vogliamo, per fare una legge elettorale, perché la legge elettorale stabilisce, esprime quelle regole del gioco che devono valere per tutti. E quindi in qualche modo, anche per fare un governo. Un nuovo governo? Assolutamente, no. Noi escludiamo qualunque ipotesi di sostegno a governi tecnici, tecnico-politici, assolutamente no, per lavorare ad una legge elettorale non c'è bisogno di entrare in un governo, poi si farà tutto alla luce del sole, si farà in Parlamento, naturale, senza accordi dietro le quinte, senza accordi dietro il banco. Ma lei si candiderebbe, onorevole Carfagna, alle primarie del centrodestra se ci fossero con quei vincoli? Se posso finire la domanda, con i vincoli e le regole a cui faceva riferimento prima, necessari, perché sennò naturalmente. Io credo che nella vita e ancora di più in politica ci vuole un po' di serietà, quindi parlare di quello che potrà esserci senza avere la certezza che ci sarà. Vabbè, lei dice, è un esercizio di retorica veramente inutile. Senta, Renzi, va bene, ho capito benissimo. Renzi ha preso il 40% dei voti nel referendum, l'ha preso da solo perché obiettivamente ha combattuto da solo naturalmente, dato che quasi tutti convergono sul fatto che fosse anche chi sosteneva Renzi fosse voto contro Renzi e anche contro la riforma, ma molti contro Renzi, qualcosa probabilmente è anche suo, immagino. Ma certo, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Non so se è tutto il 40, ma insomma tanto 40, di più. No, sa perché? Perché io ho girato molto in questi mesi e in queste settimane. Sì. Ho incontrato tante persone che votavano sì, tante. Sì. Incontrate, tanto che non mi aspettavo un risultato così clamoroso. Per il no. Ma molte persone che votavano sì mi non dicevano erano io sì, malgrado Renzi. Sì, malgrado Renzi. Esattamente. Dire che quel 40% è di Renzi, come dire, è una lettura un po' consolatoria, d'accordo. Insomma, non è veritiera. Senta, le faccio un elenco: Fini, Casini, Alfano, adesso Parisi. Ma come mai Berlusconi ha questa facilità di mangiare proprio delfini nel momento in cui sembra che stiano uscendo? Non hanno nessuno. Guardi, di questi Charquid. Mi ha fatto un elenco di persone delle quali io potrei raccontare le ragioni per cui poi si sono interrotti i rapporti. Fini ha creato un suo partito, ha contestato pubblicamente. Cioè dice, insomma, per farla semplice, lei dice non è Berlusconi che mangia. Ha agito di intelligence con Napolitano per destabilizzare il governo. Alfano ha contraddetto una linea che il partito nel suo insieme ha preso. Parisi, poveretto, non aveva fatto ancora niente, però. Ma Parisi non... Ha preso due legnate che fanno male a me, che le ho sentite. Io sono contenta che lei dia una lettura così semplicistica delle vicende che sono accadute negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Sto parlando di Parisi in questo istante. Non concordo e dissento. Parisi è un signore che con grande coraggio e con grande generosità si è messo a disposizione. Benissimo, resta ancora in campo, non ha voluto assumersi la responsabilità di guidare Forza Italia, vuol fare il federatore, ma insomma ha problemi ad andare d'accordo con i federati, quindi cose che poi determinati percorsi si prendono un'altra direzione oppure si sgonfino. Senta, le faccio un'ultima domanda perché siamo in chiusura. Lei la farebbe un'alleanza con i 5 Stelle per rifare la legge elettorale? Le ho già risposto prima. Non c'è bisogno di fare alleanze o di fare governi per fare la legge elettorale. La legge elettorale va fatta, possibilmente va fatta con l'accordo con di qualcuno, tutti, perché si tratta delle regole del gioco che devono essere neutrali e devono valere per tutti. Non c'è bisogno di fare un governo e c'è bisogno soprattutto di fare presto per permettere poi al Parlamento di occuparsi delle vere emergenze del Paese, sono 10 mesi che siamo bloccati, e di andare al voto finalmente per dare agli italiani la possibilità di eleggere direttamente i loro rappresentanti. E il giorno che finiscono le elezioni si deve sapere chi ha vinto. Dipende, guardi. Meglio di questo c'è soltanto che si sappia chi vince prima, il giorno prima delle elezioni, ma questo io le ho chiesto se il giorno dopo è utile. Perché in un regime, in un sistema un sistema tripolare la cosa più importante. Se lei mi dice no, io capisco. Possibilmente sì. Però in un sistema tripolare c'è bisogno di dare anche adeguata rappresentanza alla volontà degli elettori, no? Se si prevede un premio di maggioranza abnorme, si dà la possibilità a un partito che rappresenta quindi il 15% il sì, è forse 55, noi sappiamo chi vince la sera diciamo delle elezioni, che il sì è ma, forse. Vince, ma vince un signore che ha il 15% dell'elettorato. Quindi il sì, dire, il sì non è un forse. Non siamo a un telequiz, non è no, sì, no. Ma non è un problema del telequiz, onorevole Cofani, le chiedo. Queste sono questioni faccio sulle quali bisogna domanda. Argomentare, sulle quali no, io non le posso rispondere sì e no, perché non siamo all'ascia raddoppia, capito? Cioè, per qui fortuna. stiamo parlando della possibilità di dare all'elettorato la rappresentanza all'interno di un Parlamento in un sistema tripolare, dove no, dato, c'è il rischio dato che in molti sistemi politici il 15%, sì, sarebbe l'ideale. Si sa, no? Sarebbe, si sa, allora sarebbe, non è una domanda così drammatica. Sarebbe l'ideale, ma siccome non parliamo in maniera astratta, ma parliamo concretamente con un sistema va bene, come il nostro, d'accordo. Che è caratterizzato da una tripolarità e da un astensionismo che all'ultimo referendum si è ridotto, ma che comunque nella realtà dei fatti va bisogna bene. Coniugare, le rispondo come le risponderebbe un costituzionalista, sì, governabilità, quello che dice lei, con rappresentatività, va quello bene. Che dico io. Grazie, grazie mille, onorevole. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Mario, secondo te abbiamo le idee più chiare adesso? No. No, direi di no. No, non lo so, dopo questi proprio due interventi abbiamo chiarito zero, tutto. No, direi di no. Mi è venuta, sai che cosa? Mentre ascoltavo, soprattutto l'ultimo intervento, una gran nostalgia dell'America. Vabbè, adesso dove adesso, si sa dove si sa chi vince e chi perde. Io ho fatto questa domanda, ma sembra che sia una domanda da quiz. Ma anche, anche Londra va bene, dove si sa chi vince e chi perde. Sì, ma anche in Francia si sa. Interessante. Vogliamo tornare al proporzionale senza neanche dirci. No, voglio dire, prima si dice che bisogna parlare di cose concrete, poi io chiedo se sarebbe importante sapere se comunque tot capita tot sentenze, dicevano i latini. Pietrangelo, tu hai idee più queste del capita e sentenze è un problema tutto di voi democratici. Io credo che adesso la situazione politica sia surriscaldata giustamente, e c'è da capire solo una strategia. Le periferie, i giovani, il sud hanno dato una risposta ben precisa al progetto di Matteo Renzi. Gli hanno detto no. No. Se va alle elezioni lo massacrano ulteriormente. Il problema vero è quindi, dall'altra parte, a destra, di darsi subito una mossa. Ed è una sola parola, si chiama alternativa. Sì. Dare un'alternativa a Matteo Renzi gli dà la possibilità di vincere. Per avere un'alternativa ci vuole un leader e bisogna sapere se quella sera lì poi sappiamo chi ha vinto, perché se non sappiamo chi ha vinto, siamo proporzionale puro e bisogna fare un'alleanza fra 42 partiti, forse a me non me ne siamo, no, ci avremo a me non un altro problema niente di chi governa domani, destra, sinistra, però io voglio sapere chi governa. Per me può governare anche XYZ, però da cittadino che vota io voglio avere la certezza del governo. Io non voglio vedere, ho perso, non voglio vinto, certo, perso, non voglio vedere il film della Prima Repubblica. La malizia, se almeno posso questo dire, lo concederete. Voi governi chi vuole, basta. La malizia è una sola. Gli italiani hanno detto no a Matteo Renzi. Va bene, quelli che dovrebbero dare un'alternativa a Matteo Renzi non gliela vogliono dare. Vogliono a tutti i costi che resti lui. Non deve restare invece. Si deve. Tu dici che vuole che voglia. E la malizia è tutta lì. Cioè Mattarella è il malizioso? No, io mi riferisco alla stragrande maggioranza degli italiani che non sono di sinistra e che nessuno vuole dare loro una casa, un destino e un nome. Tutto qua. Sì, E quindi a destra dovrebbero innanzitutto discutere, decidere e una volta per tutte iniziare un nuovo percorso. Ci provavamo a farcelo raccontare, ma forse è un po' presto. 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 sms pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Mix 24. Allora, Pietrangelo, ecco un po' di musica per rasserenarci. Evviva. My heart's so heavy, you're so far away. The world's so beautiful without you so great. My heart's so heavy like the wall that we built keeps us from walking. Beh? E oggi c'era la tribù dei cuori, con piume d'aquila in testa, ascia in pugno. Si sono riuniti negli alti e impervi sentieri delle nuvole per farsi leggeri e lieti coi loro pensieri, e hanno trovato ovunque gelsomini, grovigli non proprio vegetali ma ideogrammi di felicità. Ha chiamato Italo Balbo, ha voluto questo brano per Elettra Marconi con un messaggio: si vola o si trasvola? Arrivo con l'idrovolante. Otto. Mario, c'è una bolla? Certo. Touching each other, two spirits greeting, trying to carry further. You are one. Bella, bella questa qua, Blankets. Allora, questo è Inside My Love, e ce ne sarebbe tanto bisogno d'amore dopo questa tornata referendaria, ma senti, passiamo su un altro continente, andiamo in Asia. Andiamo in Asia. Perché l'Asia è in grande movimento, ci sono due fatti che mi hanno molto colpito, uno è uscito ieri, l'altro l'ho visto oggi, li metto insieme per provare a unire i tasselli. Il primo è che Shinzo Abe andrà a Pearl Harbor, che è il presidente del consiglio del Giappone. È molto importante perché non era mai successo, e questo è un primo tassello. Il secondo tassello è che Xi Jinping, cioè il presidente della Cina, invece andrà al vertice di Davos, cioè il vertice dove si riunisce il World Economic Forum, che è l'elite del capitalismo mondiale. Anche questa è una prima volta. Che cosa sta succedendo? Effetto Trump. Sì, eh? Sì, le relazioni tra Giappone e Stati Uniti sono ormai fortissime, lo erano sempre state in realtà, ma con Trump ancora di più. Trump usa il Giappone come una piattaforma. Funzione anticina. Anticina. E la Cina risponde con ansia, andando, diciamo, dai capitalisti. Esatto, è molto, molto, molto interessante. Sì. Salamino! Urna e buoi dei paesi tuoi. Salerno dice no a Vincenzo De Luca, Agrigento dice no ad Angelino Alfano e Laterina infine, il ridente sito toscano dice no a... Laterina, dicevo, il ridente sito toscano dice no a Maria Elena Boschi. La musica che c'entra? Togliamo la musica. È Natale. E no, che c'entra? Dice no alla soave, silente, severa Maria Elena Boschi. È Natale. Ma non c'entra la musica, scusami. Che appunto, caro Giovanni, troverà il sorriso, lo ritroverà, non l'ha mai perso, per vestire i panni della Madonnina al presepe vivente al proprio paesello. Beh, sai che l'aveva fatto più volte. Più volte ci torna, dove comunque lì va al paesello, dove comunque la riforma, comunque Giovanni, la riforma Laterina, comunque la riforma Laterina è stata bocciata. Vabbè, stavolta la musica ci sta, perché la riforma, caro Giovanni, è stata bocciata dai pastorelli. È stata bocciata dal bue, è stata bocciata dall'asinello, dal fornaio, dal carbonaio, forse anche da Flavio Carboni, chissà. È stata bocciata dal castagnaro e dai rimaggi, tutte e tre correntisti e investitori di Banca Etruria. Lì la riforma non è passata. Non è passata. Poveri rimaggi. Percentuale alta di no, dove? In Sicilia. Il 71% in tutta l'isola, isole comprese della Sicilia, quindi anche da Licudi a Filicudi a Pandelleria a Lampedusa, 71%, dove pure è stato un continuo va e vieni di Matteo Renzi. Ecco il va e vieni. Non si era mai visto mai Renzi in Sicilia, ma nell'ultima settimana di campagna elettorale è venuto quattro volte in un affollarsi di brigadieri, bombiere, carabinieri, pompieri, cantonieri, fucilieri, bersaglieri, tutti pronti fino a ieri a significare la presenza del governo grazie al signor ministro dell'interno, cui però gli si è acuito il triste inverno. Nella città della Valle dei Templi, caro Giovanni, città natale di Angelino Alfano, il vice premier, senza quid, ma con un quorum, come lui stesso ci ha detto qui ai nostri microfoni, ha avuto fatto un quorum grande quanto una casa, 75% di no. Urne e buoi dei paesi tuoi. E così a Salerno, Vincenzo De Luca, presidente della Campania, non ha potuto portare i sì tanto promessi a Matteo. Neppure gli indecisi di Agropoli, nutriti ad alici fritte, hanno poi votato la riforma. Renzi se ne è lamentato con De Luca, il quale da par suo ha avuto una sola risposta, questa: ma chi sono io? Babbo Natale? Vabbè Mario, vai con una bolla, vai. Sì. Babbo Natale. Me ne vado in America, basta. Cioè, ti colleghi poi? Sì. Seems like yesterday. Questo è un pezzone, Giovanni. But it was long ago. Bob Seger. Jane was Against the Wind. Per i nostri ascoltatori sei un grandissimo DJ, tutti ti esaltano. Senti, ma che non pezzo. Come commentatore politico, no, va benissimo. Come DJ, io accetto assolutamente. Senti qua. Mountains that we move. Allora, io vi chiamo a commentare una cosa meravigliosa, e che è la grandezza dell'America, per questo che io dico alla oggi fine, siamo in America, grandioso. A un certo punto ieri la scena è stata meravigliosa, io me la sono goduta da pazzi. Al Gore, avete capito chi è? Al Gore si è presentato all'ingresso della Trump Tower a New York, ha varcato la soglia e davanti a lui c'erano increduli tutti i giornalisti e gli hanno chiesto: ma lei cosa fa qua? E lui ha risposto, devo incontrare il presidente eletto per parlare di cambiamento climatico. Mamma mia, oddio, fantastico. Tutti sono rimasti spiazzati e hanno detto: come? Lei, l'alfiere della difesa del clima, va a parlare col presidente che ha detto che il cambiamento climatico è un complotto della Cina? E quello gli ha risposto: sì, mi ha chiamato, lo devo vedere. Bene, hanno fatto il meeting, dopodiché Trump ha detto: è stato un incontro veramente produttivo. Beh. Questa è la differenza che passa tra concretezza. Noi e loro. La questo concretezza, loro sanno che alla fine delle elezioni uno che ha vinto c'è. C'è. Okay. E deve governare. Canzoniere. Solo tu, Ivan, conoscete questa storia. Ivan la conosce da molto tempo, ma Ivan è una tomba. Aliosha, devi credermi. Anche allora amavo Katia, ossia la odiavo. Allora? Amore e odio non si assomigliano, forse. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms pubblicità. Mix 24. Vorrei ricordare oggi il dolore del popolo brasiliano per la tragedia della squadra di calcio. Medellín, Colombia. La squadra brasiliana Chapecoense vola per andare a disputare la finale della Coppa Sudamericana di calcio, ma l'aereo si schianta mentre tenta un atterraggio d'emergenza. 71 morti, 6 sopravvissuti. In Italia capiamo bene questo, perché ricordiamo il Superga del 49, sono tragedie dure, preghiamo per loro. Collina di Superga, 4 maggio 1949. Il grande Torino fa ritorno a casa in aereo dopo un'amichevole a Lisbona. Nebbia, pioggia, vento. L'aereo si schianta a pochi passi dalla Basilica di Superga. 31 morti, nessun superstite. è una tragedia che coinvolge tutto il paese. Il grande Torino, la squadra simbolo della rinascita italiana dopo la guerra, non c'è più. Va bene, dopo il giornale radio dedichiamo la puntata alla tragedia di Superga per ricordare le vittime di ieri e quelle di oggi. E intanto Alessandro da Iseo. Alessandro, buongiorno per il... Pronto? Buongiorno a lei. Pronto, buongiorno. Allora ci dica il canzoniere? Sì, io dicevo che erano i fratelli Karamazov. Giusto, e lei diceva bene. Giusto, perché c'era Ivan pure. Come va sul lago? Alyosha, benissimo, c'è una bella giornata. Si sta bene? Si sta bene. Dopo tutta la baraonda di Cristo si sta bene. Infatti, però ha portato un sacco di soldi Cristo. Ha portato un sacco di soldi, tanti disguidi, tante cose belle, tante cose brutte. Quelle più brutte quali sono state? Insomma, se si può dire in radio, il casino, ci hanno blindati. Il casino, tanti soldi, forza, sì, un po' di attività, va bene, troppo tranquille, va bene, grazie. Grazie. Adesso con il professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Agenzie di stampa, l'omeopatia non funziona. Oggi non vi racconto un lavoro pubblicato su una rivista scientifica, ma quanto è appena uscito sulle agenzie di stampa, perché è una notizia vera e che vale la pena che il grande pubblico la conosca, la sappia, la digerisca. La Federal Trade Commission, cioè l'agenzia governativa che si occupa di tutela dei consumatori negli Stati Uniti, ha pubblicato le sue ultime linee guida dicendo una cosa secca, definitiva, che non ci sono prove scientifiche sull'efficacia del prodotto o dei prodotti omeopatici e che le affermazioni sul prodotto sono basate, deve essere messo sulla confezione del prodotto, che le affermazioni sul prodotto sono basate esclusivamente su teorie omeopatiche del Settecento che non sono oggi accettate dalla maggioranza dei medici. Quindi fatevene una ragione, l'omeopatia è una balla, ha al massimo l'effetto sovrapponibile a quello del placebo, cioè quando ci prendiamo una complessa piena di acqua e zucchero, ma siccome ci fidiamo del fatto che abbia un potere terapeutico, in qualche modo ci sentiamo meglio. Questo è quello che hanno detto negli anni una quantità infinita di studi che hanno comparato semplicemente su popolazioni di malati quelli trattati con la medicina omeopatica e quelli trattati con il placebo. Non c'erano differenze. Quando invece nella medicina vera, perché un prodotto venga utilizzato, ci deve essere una bella differenza significativa e statistica rispetto al placebo. Ripeto, l'omeopatia non ce l'ha, l'omeopatia è una pia illusione. E per chiudere, oggi Gloria Guerrera cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi ieri moriva di dolore e oggi invece canta. La compagnia in una versione molto rock di Vasco Rossi. Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. A lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo ed allegria, io ti ringrazio, sconosciuta compagnia, non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore.